Sono attento alle preghiere tue, hai visto? Che bello averci. Comunque, anche se sono attento alle preghiere, non so quando potrò seguire gli appunti del messaggio di questa mattina con linearità, visto che in questi giorni, cioè gli ultimi giorni, non ho dormito bene. La stanza dove dormivo praticamente dava e dà su una stalla. E qui c'è, cioè, ma quanto sono sensibile le mucche? È incredibile. Hanno tolto un vitello, gli altri due a piangere tutta la notte. Tutta la notte. E queste sono le mucche. Ho detto tutto. Figuriamoci il tuo vicino, il mio vicino. Parto subito con una domanda nel messaggio di questa mattina. Hai ricevuto qualcosa dal Signore? Posso vedere la tua mano, che ha ricevuto mai in tutta la vita di credente qualcosa da parte del Signore? Bene. E non tutti hanno alzato la mano, non perché non l'hanno ricevuto, ma perché dice sempre le solite cose. Va bene, però la domanda vera è questa qui: e perché il Signore te l'ha dato? Beh, dai, forse, sentiamo, perché? Ti ama? Certo, perché l'abbiamo chiesto, sì. Tutto quanto, cioè abbiamo creduto, vai, andiamo. Abbiamo bisogno, vedi? Io vedo e so, e lo sapevo già in anticipo, perché sono le mie stesse risposte. Abbiamo risposto adesso come italiani, va bene? Adesso dobbiamo rispondere come credenti. Abbiamo risposto come italiani, perché avete visto con le votazioni è la stessa cosa. Una cosa, l'altra, poi alla fine niente. C'è un solo motivo per cui, ve lo suggerisco piano piano, va bene? C'è un solo motivo per cui il Signore ti ha dato quello che ti ha dato. Può essere anche un capello che ti ha dato. Mo dobbiamo rispondere in maniera corale come figlioli di Dio e nessuno deve tenere la bocca chiusa. Perché il Signore ti ha dato quello che ti ha dato? Per? No, cioè, proprio. Cioè, l'italianità non va mai via da noi, eh? Cioè, era troppo piccolo, dovevi scriverlo più grande, vabbè, Claudio, non va niente, vabbè, è colpa tua, va bene, che non hanno risposto bene. Per dare, è la realtà, qualsiasi, hai ricevuto un miracolo? Hai ricevuto una guarigione? Hai ricevuto una risposta alle tue preghiere, piccola o grande? Il Signore te l'ha dato non perché sei più bello di me, non perché lo meriti più di me, non perché ti comporti meglio di me, ma te lo ha dato perché Lui aspetta che tu dai, che io do, perché questo è il principio della parola di Dio, questo è il principio della Bibbia. E se non facciamo così, va male. L'esempio. Vi ricordate la storia della manna? C'è qualcuno che non conosce la storia della manna? Beh, non ti dico nemmeno vai a leggere la Bibbia, vai a vedere il film dei 10 comandamenti, va bene, così almeno sai, lo vedi anche. Il popolo di Israele, come noi, si lamentava. Che non aveva da mangiare, non aveva la carne, lo sappiamo com'era la storia. E il Signore ha detto: io vi darò in abbondanza, ogni giorno voi avrete di che mangiare. E infatti il giorno dopo è piovuta dappertutto la manna. il pane dal cielo che loro potevano raccogliere. C'era una sola condizione. Qual era questa condizione? Un po' più, io non lo sento qui. Esatto, cioè dovevano raccogliere giusto quanto bastava per loro e per quelli della loro tenda, cioè la famiglia. Non dovevano raccogliere di più. Ma anche gli israeliti sono italiani. C'era il furbetto che dice, fammi prendere, ma chissà che qualcuno rimane senza e lo posso vendere. C'era il pauroso che dice, e se mi finisce, come devo fare? E raccoglieva di più. E c'era di tutti i tipi che raccoglievano di più. Che cosa è successo il giorno dopo? I vermi. I vermi. Tu hai ricevuto per dare e non per... Il miglior frigorifero è dare. Se vuoi veramente conservare quello che il Signore ti ha affidato e ti ha dato, è proprio dando che tu lo conservi bene e non cercando di tenere con te, perché si affievolisce. E poi succede che la difficoltà che viene domani o oggi stesso copre il bene che hai ricevuto e non te ne ricordi più. Dai, e vedrai quando cresce quell'autorità e quella potenza. Questo è il principio della parola di Dio. Hai ricevuto perché devi dare. E io non sto parlando delle offerte, delle decime. Perché, anzi, andiamo a vedere la storia che riguarda noi. Identifichiamoci in questa storia, la leggiamo insieme. È una storia curiosa, strana, possiamo interpretarla come vogliamo, ma è in Luca al capitolo, ecco, è venuto, 8 dal verso 26. Gesù con i suoi discepoli approdarono nel paese di Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Quando egli fu sceso a terra, perché erano con la barca, gli venne incontro un uomo della città. Era posseduto da demoni e da molto tempo non indossava vestiti, era nudo. Non abitava in una casa, ma stava fra le tombe. Immaginate, appena vide Gesù, lanciò un grido. Gli si gettò ai piedi e disse a gran voce, che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi. Gesù, infatti, aveva comandato allo spirito immondo di uscire da quell'uomo di cui si era impadronito da molto tempo, e anche quando lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, spezzava i legami e veniva trascinato via dal demonio nei deserti. Gesù gli domandò, qual è il tuo nome? Conosciamo bene questa storia, eh? Ed egli rispose, Legione. Mo, la legione romana era formata da almeno 600 uomini, però non è che mo dobbiamo dare i numeri. Perché molti demoni erano entrati in lui ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. C'era là un branco numeroso di porci che pascolava sul monte e i demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli. Ed egli lo permise. I demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci e quel branco si gettò a precipizio giù nel lago e affogò. Coloro che li custodivano, videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente uscì a vedere l'accaduto e, venuto da Gesù, trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni che sedeva ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente, e si impaurì. Quelli che avevano visto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. L'intera popolazione della regione del Geraseni pregò Gesù che se ne andasse via da loro, perché erano presi da gran spavento. Egli, salito su una barca, se ne tornò indietro. L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma egli lo rimandò dicendo: torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te. Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Che storia, eh? Incredibile. Certo, è una storia dalle mille domande. Com'è che quel pazzo, lo possiamo chiamare pazzo, no? Com'è che quel pazzo ha riconosciuto Gesù, figlio di Dio? Domande, sì, ce ne sono tante. E perché Gesù ha dato ascolto alla preghiera dei demoni? E i porci, e poverini, che male avevano fatto? Che sono dovuti affogare? Tante domande. E te le puoi continuare a fare, però non ne esci fuori. Puoi spendere tutta la tua vita, non ne uscirai fuori, te lo dico io. Non perché io ho ragione, ma perché è così. Non arriverai mai, puoi dare delle spiegazioni, puoi trovare delle giustificazioni, ma non arriverai mai alla risposta profonda di queste domande. L'accusa reale che io ho preso, proprio per me è questa. Non è tanto domandarmi che cosa e non che cosa è successo con questa storia. Quello che io ho preso per me è questa. Se ha liberato lui, che era pazzo, e che io me ne sarei scappato a vederlo nudo e violento, quanto più libererà me dai fastidi e dalle cose che io sto vivendo oggi? Quanto più libererà me? E io su questo mi voglio concentrare, che Gesù vuole liberare me, che Gesù vuole liberare te, che Gesù ci vuole liberare. Perciò io non devo preoccuparmi di rispondere a tutte queste domande, che non ne verrò fuori. Io mi devo preoccupare di imparare a lottare bene. Molte volte, e io lo dico di mio, parlo di me, molte volte anche dentro lotto contro gli altri. Perché non voglio dire sempre, ma quasi sempre, la colpa è dell'altro. Dai, diciamolo chiaro. Io mi guardo allo specchio e dico: hai ragione. Devo imparare a lottare bene. E qualche volta, quando proprio sto giù, ti capita di stare giù, triste, ti capita di non vedere speranza, non dico per domani, ma già per oggi. E lì la colpa, non che lo dico ad alta voce, però qui dentro la sento, è di Dio. Perché a me, meglio al vicino, no? Io devo imparare a lottare. Questo il Signore mi chiama, a vedere quello che realmente sta accadendo in me. Io vi racconto una storia che è vera, che la potete interpretare come volete, è anche ridicola, però illustra e mostra chiaramente quello a cui il Signore ci chiama o ci insegna a fare. Molti, moltissimi anni fa, avevamo la tenda di evangelizzazione, l'abbiamo fatto in un luogo disastrato. E qui avevamo messo la tenda ai margini di un campo sportivo e c'era il prato e era successo che probabilmente avevano rubato un camion di mucche e l'avevano lasciata lì, libere, mo a parlare di mucche, vedi? E lì c'era una squadra che operava nella evangelizzazione, va bene? Quindi era un campo sportivo. La mattina la sorella che accudiva il gruppo con il cibo si alzava, andava a fare la verdura nel campo, perché il campo non finiva mai. C'era anche il gabinetto, il bagno per i calciatori, per gli spettatori, quindi si stava proprio, mai siamo stati così bene ad evangelizzare in un posto, avevamo tutto a disposizione. E questo ballo, una mattina la sorella doveva andare a bagno, logico, come ogni giorno. Questo bagno era particolare, aveva, siccome non aveva finestre, la porta era un poco a metà, la parte di sopra si apriva e lasciava libero per entrare l'aria e tutto. E mentre la sorella stava facendo tutti i suoi bisogni, davanti gli compare una testa di mucca, immensa e grande, incredibile. Allora tu immagina, stai lì, quella era attratta dall'acqua praticamente, la mucca. E la sorella incominciò a gridare, a sbraidare, a cacciare, a fare, e la mucca stava lì. A un certo punto la sorella non ne ha potuto più e ha detto in una frase molto forte: spirito di mucca, vai via! Ora, se era uno spirito, non lo so. La mucca era, però sta di fatto, io ti sfido andare a interrogare quella sorella per chiedere se quella mucca non è andata via appena ha detto quella frase. Valla a convincere che era una mucca e non uno spirito di mucca. Che cosa vuole dire questo? Che Gesù dice: impara a lottare a ciò che ti dà fastidio, a ciò che ti dà il male, a ciò che non è buono dentro di te e intorno a te. Perché? Perché sappi questo, che direttamente o indirettamente è sempre il diavolo che ti sta attaccando, è sempre il maligno che viene intorno a te, che si può chiamare legione o che si può chiamare singolo, non ha nessuna importanza. Il punto è che il diavolo opera in tutti i modi per toglierti la gioia, la pace, per toglierti il frutto che Gesù ti dà, per non farti vedere la bellezza dei doni che il Signore affida a te. In Giacomo al capitolo 1 al verso 17 dice proprio espressamente: fratelli carissimi, non vi ingannate, perché ogni cosa buona e ogni dono perfetto discendono dal Padre degli astri luminosi, dove non c'è né variazione né cambiamento, perché Dio è lo stesso. Come ha amato all'inizio, continua ad amare me, nonostante che da tanti anni io lo seguo, lo servo, lo osservo e continuo a cadere. Lui mi ama. Perché? Perché vuole vedere il frutto e vuole vedere il meglio dentro di me. Perché vuole vedere il frutto? Perché vuole vedere il meglio dentro di me? Perché? Io lo so che te lo dici a te stesso, è benissimo, oppure alta voce qualche volta non è male, per dare, perché lì, non lo dimenticare, è il frigo per conservare quella manna, quel dono che Dio ti ha dato e farlo fruttificare oltre modo. Perciò la domanda che dobbiamo farvi, anzi domandati: in che cosa io, nel mio seguire, io me lo chiedo, in che cosa? Nel mio seguire, eppure mi sento il più delle volte a posto e bene davanti a Dio e che faccio il bene, però non manco mai di domandarmi e di chiedere in me stesso. Perché alla fine tu avverti situazioni, avverti certe tristezze, avverti certe incompletezze che non sei arrivato dove desideravo. E lì allora io mi domando in che cosa ho lasciato spazio al diavolo che ha potuto operare nei miei pensieri e nei miei sentimenti. Perché sappi questo, che se non ti fai la domanda in che cosa hai lasciato porte aperte per il diavolo, allora tu stai comunque combattendo, ma alla fine stai combattendo contro te stesso, contro me. È il più delle volte io mi sono trovato a combattere contro me stesso, voglio migliorare, voglio fare, voglio dire, voglio, e alla fine ti senti ancora più frustrato, ancora più depresso, perché non sei riuscito nonostante la buona volontà. Incomincia a riconoscere il bene che Dio ha fatto in te e usa quello come arma e come potenza per combattere il male. Ti senti strano? Mi sento strano, io lo dico giusto per un buco, sai, come si dice, mal comune, mezzo gaudio, no? E allora è più facile parlare di noi e non di me, però quando io dico noi sappiate che voglio attenuare quello che è a me. Mi sento strano quando per una qualsiasi situazione nella mia vita io devo dire spirito di Satana vai via, spirito della mucca esci. Mi sento strano, ti senti strano, dici ma sono io, l'ho pensato io, l'ho sentito io, l'ho fatto io. Ma non dimenticare che alle spalle, direttamente o indirettamente, c'è una potenza del diavolo che vuole rubarti, vuole distruggerti e vuole togliere quello che Dio ha costruito e ha fatto dentro di te. L'esempio più eclatante, l'esempio più chiaro, l'esempio più semplice che mostra proprio questo è Pietro. Ricordate certamente la storia di Pietro quando Gesù ai suoi discepoli racconta, e è un momento molto particolare, Gesù ha aperto il suo cuore, stava soffrendo dentro di sé, aveva sofferenza nel suo volto e dentro di sé, perché aveva compreso che da lì a poco sarebbe andato alla croce a morire per tutti quanti noi. E con questa sofferenza nel cuore vuole aprire il suo cuore e i suoi, e racconta che da lì a poco sarebbe andata in croce. Che cosa fa Pietro? Non facciamo noi, ma è proprio ti. Vieni con me, che mo ti dico io. E lo ha portato in disparte, lontano dagli altri apostoli. E che cosa gli ha detto? Non ti accadrà niente. Ci sono qua io. E vuoi che io permetto una cosa del genere? Quanto sono Pietro, quanto mi riconosco in Pietro. La prima difficoltà ha girato i tacchi. Che cosa ha fatto Gesù? Questo è interessante per noi. Però ricordatevi questo, che erano in disparte. Gesù non ti vuole spubblicare, Gesù non mi vuole spubblicare, Gesù non mi vuole umiliare, Gesù non mi vuole annichilire, non mi vuole nemmeno avvilire. In disparte si è girato a Pietro e ha detto: Satana, va via da me. Ma Pietro era Satana? No, certamente no. Ha mangiato e ha dormito con lui anche dopo. Che cosa ha cacciato Gesù? Ha cacciato quello spirito che voleva attaccare la sua fede, che voleva attaccare le sue certezze, che voleva attaccare tutto quello che aveva fatto fino a quel giorno. Ed è per questo che Gesù ha cacciato il diavolo. Non si è messo a discutere con Pietro, che ne so io, dicendo: ma Pietro, ma tu pensi che io ho detto quello che ho detto così tanto per dire, e sei che io non sono capace di far venire una legge? Non si è messa a discutere, ha cacciato il diavolo, ha cacciato il diavolo, caccia il diavolo, non di stare lì a chiedere lo è, non lo è, come mi sento, come non mi sento, in disparte, fallo, lotta contro le potenze del maligno che vogliono distruggere e guastare quello che il Signore ha fatto dentro di noi. Gesù mi dice, Gesù ti dice, puoi sperimentare vittoria in ogni situazione, solo impara a combattere, e impari a combattere quando riconosci l'opera di Dio dentro di te. Incomincia a riconoscere, prima di cacciare il diavolo, prima di lottare anche contro te stesso e tuo pregare, fai una cosa, fai un esercizio mnemonico, va bene? Incomincia a elencare tutte le cose che Gesù ha fatto nel tuo passato. Io ho chiesto semplicemente all'inizio: Gesù ha fatto qualcosa per te? E io credo tutti noi abbiamo alzato la nostra mano, perché chi più chi meno è così, va bene? È logico che a me è di più perché mi vuole più bene, però questa è un'altra storia, va bene? Ma questo è il punto, riconosci quello e apri la porta dell'autorità e della potenza e dello Spirito Santo per poter vivere e affrontare quello che il Signore dice. Adesso andiamo, altrimenti prendiamo troppo tempo, andiamo alla seconda parte della storia. Il pazzo. Ecco, chiamiamolo così, quello aveva di tutto e di più, altro che di tutto e di più. Il pazzo divenne normale. Per quanto vi sembra strano, il pazzo è diventato normale. Forse non agli occhi tuoi, ma agli occhi di Dio sì, ed è questo che conta. Forse non agli occhi dell'altro che ti sta a fianco, ma agli occhi di Dio, quando Lui opera, ti fa diventare normale, ti fa stare bene. Allora, il pazzo è diventato normale. E poi, dice, quello, cioè, voi dovete capire, probabilmente ha speso parte della sua vita in normalità e parte della sua vita se n'è andata di testa, come tutti quanti noi, e ha incominciato a fare cose strane, che addirittura girava per i cimiteri, girava nudo, lo legavano perché faceva del male, lui aveva talmente tanta di quella forza, è incredibile. E poi è diventato normale. La domanda che ti poni, e mo che faccio? Perché è reale, è. Abbiamo letto che quando sono arrivati gli altri che hanno sentito quella storia di quella liberazione, sono arrivati lì, che cosa hanno trovato? Hanno trovato Gesù e ai suoi piedi l'uomo vestito, ai suoi piedi stava quell'uomo pazzo che era diventato normale. E qui è il punto, e torno a ripeterlo fino alla noia. Riconosci l'opera di Dio che ha fatto nella tua vita. Non è importante se ha fatto un grande miracolo o ha fatto una piccola risposta, ma non la trattare. Beh, va bene, mo è passato, è normale. No, normale sei diventato tu grazie a quel miracolo. Ed è quel miracolo che ti permette di ricevere e di vivere tutta l'autorità e tutta la potenza di Dio per essere liberato e liberato. Così come ha fatto il, chiamiamolo ex pazzo, dai, a questo punto, no? Siamo tutti. E quanti sono ex? Chi non ha alzato la mano è ancora pazzo. Va bene, così impari a essere pigro. Va bene? Che cosa ha fatto l'ex? L'ex appena era normale, stava bene. E quando Gesù andava via ha detto: calma, calma, dove vai? Io vengo con te, dovunque vuoi, dovunque andiamo, io voglio seguirti e voglio servirti. Ecco l'atteggiamento del dare, ecco l'atteggiamento del dare. E Gesù, che cosa ha fatto Gesù? Vi ricordate? No, tu no. Ma come? E qui ti vengono tante di quelle. Ma come? Cioè, c'è uno che lo vuole servire, che è disposto, perché quello sarebbe stato disposto pure a fare il tappeto dei suoi piedi, d'accordo? Era disposto a tutto. E Gesù gli dice no. È una cosa incredibile, cioè è una storia assurda questa qui. Dove Gesù non dice che doveva fare salti di gioia, ma almeno dire: questo è uno bravo che ha capito bene bene la parola di Dio, non come sta, no, non volevo dire, ma come tanti che non afferrano. Gesù dice no, tu no. Perché? E qui c'è un perché, qui c'è un esatto perché. Perché non tutti devono essere apostoli, non tutti devono servire alla stessa maniera. C'è un'infinità di modi di servire il Signore. Inventa, inventa. Non ti devi sentire a fare. Probabilmente l'ex pazzo si sentiva in obbligo a imitare gli apostoli, a fare come gli altri, a voler copiare gli altri. Non ti sentire in obbligo, ma ascolta quello che il Signore dice al tuo cuore, perché a quello ti ha chiamato. È ancora più importante, quello a cui il Signore ti ha chiamato, quello porta frutto. Non quello che io desidero fare molte volte e voglio fare. E infatti che cosa ha detto all'ex pazzo? Gesù? Che gli ha detto? E dice, mo l'abbiamo letto mezz'ora fa la storia, vatti a ricordare quello che abbiamo letto. Va alla tua famiglia. Va alla tua famiglia. A Gesù sta a cuore la tua famiglia. A Gesù sta tanto a cuore la tua famiglia, dal primo all'ultimo, anche quello che ritieni il più cattivo della tua famiglia, quello che ti ha fatto del male, a Gesù sta a cuore. La domanda che io mi devo porre è la stessa domanda che probabilmente si è posto l'ex pazzo. Perché che cosa ha fatto l'ex pazzo? Appena Gesù gli ha detto va alla tua famiglia, lui è andato. Ma non è andato di corsa. È passato dalla sua città. Dice, caspita, e qui ci sono tante persone. anche questa è mia famiglia. E ha incominciato a raccontare loro quello che Gesù aveva fatto nella sua vita prima di arrivare a casa sua. Perciò la domanda che io mi devo porre, che tu ti devi porre: Gesù è interessato alla mia famiglia? E questa è una certezza. Ma io ho a cuore la sua famiglia, e la sua famiglia e tutti quelli che hanno bisogno di lui, tutti coloro che hanno bisogno di salvezza e famiglia di Gesù. Anzi, vi dirò di più, che loro sono più famiglia di me, perché io ho la certezza della salvezza, loro brancolano ancora nel buio. Perciò io mi devo preoccupare della famiglia di Gesù. E dice, però io ho parlato tante volte, sapessi quando, e lo so che lo hai fatto, e lo hai fatto con tutto il cuore, e l'hai fatto con tutto l'entusiasmo, e l'hai fatto con tutto il fanatismo, con tutta la forza che... Ed è proprio questo che ci dobbiamo chiedere. È questa la domanda che io ho nella mia vita, verso i miei figli e verso tutti, devo dire sinceramente. Ho parlato di Gesù e ho voluto parlare sempre di Gesù e voglio continuare a parlare di Gesù, a tempo e fuori di tempo, per dire a proposito e anche a sproposito qualche volta, va bene? Ho parlato, ma quanto ho mostrato? Questa è la domanda. Di parlare sappiamo parlare, perché qualcuno ha detto che un credente nei confronti di un non credente è un teologo, ed è vero. Quanto conosciamo noi della Bibbia, anche se non la leggiamo, non credo che non la leggiamo, va bene. Noi sappiamo molto di più di quelli che sono fuori, ma non è il punto di sapere di più. Il punto è il mostrare il di più, quello che Dio ha fatto nella tua vita, quello dobbiamo imparare a mostrare e di quello parlare, non stare a discutere teologicamente su chi ha ragione e chi ha torto, con chiunque incontri o con persone della stessa fede ma di un'altra religiosità, chiesa cattolica, testimoni di Geova, quando ne incontri, o musulmani o così via dicendo, non stare a discutere, non vincerai, perché verranno tanti di quei perché e arriverà un perché che non sai rispondere. Arriva sempre un perché che non sai rispondere. Ma una cosa, non c'è limite e non c'è domanda da parte degli altri. Quando tu racconti quello che Gesù, e lo mostri, quello che Gesù ha fatto nella tua vita. Ecco perché Gesù ha mandato l'ex pazzo alla sua famiglia e lui si è fermato per la città. Lui non aveva imparato niente da Gesù. Lui non sapeva tutti i racconti e tutte le parabole di Gesù. Sapeva una cosa: Gesù mi ha liberato. E quindi è il figlio di Dio. Di questo noi ci dobbiamo armare, andando agli altri, mostrando quello che Gesù ha fatto per me. Ritieni che sia piccolo e poco? Ma noi siamo diversi l'uno dall'altro e ognuno di noi serve. Non c'è il più piccolo e il più grande, non c'è di più e di meno. C'è l'esempio bello, e termino con questo, c'è l'esempio bello del corpo, che dice: noi siamo la Chiesa, il corpo di Cristo. Dice: ma se siamo tutti mano, non è possibile. E poi dice anche che anche la più piccola parte di noi, il dito mignolo, ma prendiamo, vedi, c'ho davanti proprio qui, per dire, c'è Fabrizio, c'è Rocco, vabbè, lasciamo stare Fabrizio, vai, sennò sempre Rocco. Ti hanno preoccupato i capelli che perdevi? Sì. Però ti voglio incoraggiare, ogni mattina non ti devi pettinare, va bene? E lo so che tua moglie ti dice mettiti a posto i capelli, non ci sono, però, vedi, ma questo è, noi siamo preoccupati per la più piccola parte del nostro corpo e questo vale per Gesù, lui guarda la parte più debole. Fabri, ti ho risparmiato, va bene? Ecco, che lo so che poi tua moglie ti prende, allora lasciamo stare. Domandiamoci solo questo: che cosa io sto mostrando nella mia famiglia e che cosa io sto mostrando alla famiglia di Gesù? Se noi ci facciamo questa domanda, diamo veramente una risposta agli altri. Amen? E vogliamo alzarci in piedi con questa domanda nel nostro cuore e io voglio pregare e voglio chiederti di fare una preghiera anche proprio sincera a te stesso nei confronti del Signore. Lo so che siamo sinceri, ma proprio nel dire: Signore, io voglio mostrare, ricordami le cose che hai fatto nella mia vita, falle rivenire a galla e che io posso armarmi di quelle. Signore, questa è proprio la mia preghiera. Fai venire a galla le mille cose che hai fatto nella mia vita, affinché diventino la mia arma, la mia potenza, la mia autorità, diventano il mezzo per mostrare e annunziare te in ogni luogo e in ogni situazione. Signore, questo chiedo per la tua Chiesa, chiedo per tutti quanti noi, chiedo affinché possiamo essere quel mezzo per trasmettere te agli altri e non una dottrina. Signore, noi vogliamo trasmettere quello che tu sei e quello che tu fai e non quello che sappiamo. Grazie, oh Signore, che tu ci armi e ci dai questo bene grande e la potenza del tuo Santo Spirito dentro di noi. Nel tuo nome, Gesù.